Canto secondo de L'Orlando Furioso. Primi quattro canti di Ludovico Ariosto. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Canto secondo. Ingiustissimo amor, perché sì raro corrispondenti fa i nostri desiri? Onde, perfido, avvien che te si caro il discorde voler ch'in duo cor miri? Gir non mi lasci al facil guado e chiaro, e nel più cieco e maggior fondo tiri. Da chi disia il mio amor tu mi richiami, e chi mai in odio vuoi ch'adori ed ami. Fai che Rinaldo Angelica par bella, quando esso a lei brutto e spiacevol pare. Quando le parea bello e l'amava ella, egli odiò lei quanto si può più odiare. Ora s'affligge in darno e si flagella, così renduto ben gli è pare a pare. Ella l'ha in odio, e l'odio è di tal sorte che piuttosto che lui vorria la morte. Rinaldo il Saracin con molto orgoglio gridò: «Scendi, ladron del mio cavallo, che mi sia tolto il mio patir non soglio, ma ben fu a chi lo vuol, caro costallo. E levar questa donna anco ti voglio, che sarebbe lasciarte la gran fallo. Si perfetto destrier, donna si degna, a un ladron non mi par che si convegna». «Tu te ne menti che ladrone io sia», rispose il Saracin, non meno altiero. «Chi dicesse a te, ladro, lo diria quanto io nodo per fama, più con vero. La prova or si vedrà chi di noi sia più degno della donna e del destriero. Benché, quanto a lei, teco io mi convegna che non è cosa al mondo altra si degna». Come soglion talor duo can mordenti, o per invidia, o per altro odio mossi, avvicinarsi digrignando i denti, con occhi bieci e più che braccia rossi, indi a morsi venir di rabbia ardenti, con aspri ringhi e ribuffati dossi, così alle spade, e dai gridi e da lonte venne il circasso e quel di Chiaramonte. A piedi è l'un, l'altro a cavallo. Or quale credete ch'abbia il Saracin vantaggio? Ne ve n'ha però alcun, che così vale forse ancor me ch'uno inesperto paggio, che il destrier, per istinto naturale, non volea fare al suo signore oltraggio, né con man, né con spron poté al circasso farlo, a volontà sua muover mai passo. Quando crede cacciarlo, egli s'arresta, e se tenerlo vuole, o corre o trotta. Poi sotto il petto si caccia la testa, giuoca di schiene e mena calci in frotta. Vedendo il Saracin che a domar questa bestia superba era mal tempo allotta, ferma le man sul primo arcione e s'alza, e dal sinistro fianco in piede sbalza. Sciolto che fu il pagan con legger salto dall'ostinata furia di Baiardo, si vide cominciar ben degno assalto d'un par di cavalier tanto gagliardo. Suona l'un brando e l'altro, or basso, or alto. Il martel di Vulcano era più tardo nella spelunca affumicata dove batté all'incude i folgori di Giove. Fanno, or con lunghi, ora con finti e scarsi colpi, veder che mastri son del giuoco. Or li vedi ire altieri, or rannicchiarsi, ora coprirsi, ora mostrarsi un poco, ora crescere innanzi, ora ritrarsi, ribatter colpi e spesso lor dar loco, girarsi intorno, ed onde l'uno cede, l'altro aver posto in mantenente il piede. Ecco Rinaldo, con la spada addosso sacripante tutto s'abbandona, e quel porge lo scudo, che radosso con la piastra d'acciar temprata e buona. taglia il fusberta, ancor che molto grosso. Ne geme la foresta e ne risuona, l'osso e la ciarne va che par di ghiaccio, e lascia al saracin stordito il braccio. Quando vide la timida donzella dal fiero colpo uscir tanta ruina, per gran timor cangiò la faccia bella, qual il reo ch'al supplicio s'avvicina. Né le par che vi sia da tardar, s'ella non vuol di quel Rinaldo esser rapina, di quel Rinaldo ch'ella tanto odiava, quando esso lei miseramente amava. Volta il cavallo, e nella selva folta lo caccia per un aspro e stretto calle, e spesso il viso smorto addietro volta, che le par che Rinaldo abbia le spalle. Fuggendo, non avea fatto via molta, che scontrò un eremita in una valle, che avea lunga la barba mezzo il petto, devoto e venerabile d'aspetto. Dagli anni e dal digiuno attenuato, sopra un lento asinel se ne veniva, e parea, più ch'alcun fosse mai stato, di coscienza scrupolosa e schiva. Come egli vide il viso delicato della donzella che sopra gli arriva, debil quantunque mal gagliarda fosse, tutta per carità se gli commosse. La donna al fraticel chiede la via che la conduca ad un porto di mare, perché levar di Francia si vorria, per non udir Rinaldo nominare. Il frate, che sapea negromanzia, non cesse la donzella a confortare, che presto la trarrà d'ogni periglio, ed ad una sua tasca diedi piglio. Trassene un libro, e mostrò grande effetto, che legger non finì la prima faccia, ch'uscir fa uno spirto in forma di valletto, e gli comanda quanto vuol che il faccia. Quel se ne va, dalla scrittura stretto, dove i due cavalieri a faccia erano nel bosco, e non stavano arrezzo, fra quali entrò con grande audacia in mezzo. Per cortesia, disse, un di voi mi mostre, quando anco uccida l'altro, che li valia, che merto avrete alle fatiche vostre, finita che tra voi sia la battaglia, se il conte Orlando, senza liti o giostre, e senza pur aver rotta una maglia, verso Parigi mena la donzella, che vi ha condotti a questa pugna fella. Vicino un miglio ho ritrovato Orlando, che ne va con Angelica a Parigi, di voi ridendo insieme, e moteggiando che senza frutto alcun siate in litigi. Il meglio forse vi sarebbe, or quando non son più lunghi, a seguirlo vestigi, che s'in Parigi Orlando la può avere, non ve la lascia mai più rivedere. Veduto avreste cavalier turbarsi a quell'annunzio, e mesti e sbigottiti, senza occhi e senza mente nominarsi, che gli avesse il rival così scherniti. Ma il buon Rinaldo, al suo cavallo trarsi, con sospir che parean del fuoco usciti, e giurar per isdegno e per furore, si giunge Orlando di cavargli il core. E dove aspetta il suo baiardo, passa, e sopra vi si lancia, e via galoppa, nel cavalier, che a pie nel bosco lassa, pur dice addio, non che lo inviti in groppa. L'animoso cavallo urta e fracassa, punto dal suo signor ciò che gli intoppa, non ponno, fosse, o fiumi, o sassi, o spine, far che dal corso il corridor decline. Signor, non voglio che vi paia strano, se Rinaldo or si tosto il destir piglia, che già più giorni ha seguitato in vano, né gli ha possuto mai toccar la briglia. Fece il destir, che avea intelletto umano, non per vizio seguirsi tante miglia, ma per guidar dove la donna giva, il suo signor, da chi bramar l'udiva. Quando ella si fuggì dal padiglione, la vide ed appostolla al buon destriero, che si trovava aver vuoto l'arcione, però che n'era sceso il cavaliero per combatter di par con un barone, che men di lui non era in arme fiero. Poi ne seguitò l'orme di lontano, bramoso porla al suo signore in mano. bramoso di ritrarlo ove fosse ella, per la gran selva innanzi se gli messe, né lo volea lasciar montare in sella, perché ad altro cammin non lo volgesse. Per lui trovò Rinaldo la donzella una e due volte, e mai non gli successe, che fu da Ferraù prima impedito, poi dal Circasso, come avete udito. Ora, al demonio che mostrò a Rinaldo della donzella li falsi vestigi, credette Baiardo anco, e stette saldo e mansueto ai soliti servigi. Rinaldo il caccia, d'ira ed amor caldo, a tutta briglia, e sempre in ver Parigi, e vola tanto col disio, che lento non condestrer ma gli parrebbe il vento. La notte appena di seguir rimane, per affrontarsi col signor D'Aglante, tanto ha creduto alle parole vane del messagger del cauto negromante. Non cessa cavalcar sera e dimane, che si vede apparir la terra avante, dove recarlo, rotto e mal condutto, con le reliquie sue s'era ridutto. E perché dal re d'Africa battaglia ed assedio s'aspetta, usa gran cura a raccor buona gente e vettovaglia, far cavamenti e riparar le mura. Ciò che a difesa spera che gli vaglia, senza gran differir tutto procura. Pensa mandare in Inghilterra e trarne gente onde possa un nuovo campo farne, che vuole uscir di nuovo alla campagna e ritentar la sorte della guerra. Spaccia Rinaldo subito in Bretagna, Bretagna che fu poi detta Inghilterra. Ben dell'andata il paladin si lagna, non ch'abbia così in odio quella terra, ma perché Carlo il manda allora allora, neppur lo lascia un giorno far dimora. Rinaldo mai di ciò non fece meno volentier cosa, poiché fu distolto di gir cercando il bel viso sereno che gli avea al cor di mezzo il petto tolto. Ma, per ubbidir Carlo non di meno, a quella via si fu subito volto, e da Calesse in poche ore trovossi, e giunto il dì medesimo imbarcossi. Contra la volontà d'ogni nocchiero, pel gran desir che ritornare avea, entrò nel mar che era turbato e fiero, e gran procella minacciar parea. Il vento si sdegnò, che dall'altiero sprezzar si vide, e con tempesta rea sollevò il mare intorno, e con tal rabbia che gli mandò a bagnar sino alla gabbia. Calano tosto i marinari accorti le maggior vele e pensano dar volta, e ritornar nei medesmi porti donde in mal punto avea la nave sciolta. Non convien, dice il vento, ch'io comporte tanta licenza che v'avete tolta. E soffia e grida, e naufragio minaccia, s'altrove van che dov'egli li caccia. Ora poppa, ora l'orza hanno il crudele, che mai non cessa e vien più ognor crescendo. Essi di qua e di là con umil vele vansi aggirando, e l'alto mar scorrendo. Ma perché varie fila a varie tele uopo mi son, che tutte ordire intendo, lascio Rinaldo e l'agitata prua e torno a dir di Bradamante sua. Io parlo di quella inclita donzella per cui re Sacripante in terra giacque, che di questo signor degna sorella del duca Amone di Beatrice nacque. La gran possanza e il molto ardir di quella non meno a Carlo e a tutta Francia piacque, che più d'un paragon ne vide saldo che il lodato valor del buon Rinaldo. La donna amata fu da un cavaliero che d'Africa passò col re Agramante, che partorì del seme di Ruggero la disperata figlia di Agolante. E costei, che né d'orso né di fiero leone uscì, non sdegnò tal amante, ben che concesso, fuor che vedersi una volta e parlarsi, non ha lor fortuna. Quindi, cercando Bradamante gia l'amante suo, ch'avea nome dal padre, così sicura, senza compagnia, come avesse in sua guardia 1000 squadre, e fatto che ebbe il re di Circassia battere il volto dell'antiqua madre, traversò un bosco, e dopo il bosco un monte, tanto che giunse ad una bella fonte. La fonte discorrea per mezzo un prato d'arbori antichi e di bell'ombre adorno. Chi viandanti col mormorio grato a bere in vita e a far seco soggiorno. Un culto monticel dal manco lato le difende il calor del mezzogiorno. Quivi, come begli occhi prima torse, d'un cavalier la giovane s'accorse. D'un cavalier, ch'all'ombra d'un boschetto nel margine verde, bianco e rosso e giallo, sedea pensoso, tacido e soletto, sopra quel chiaro e liquido cristallo. Lo scudo non lontan pende e l'elmetto dal faggio, ove legato era il cavallo, ed avea gli occhi molli e il viso basso, e si mostrava addolorato e lasso. Questo disir, ch'a tutti sta nel core, de fatti altrui sempre cercar novella, fece a quel cavalier del suo dolore la cagion domandar dalla donzella. Egli la perse e tutta mostrò fuore dal cortese parlar mosso di quella, e dal sembiante alter, ch'al primo sguardo gli sembrò di guerrier molto gagliardo. E cominciò. Signor, io conducea pedoni e cavalieri e venia in campo laddove Carlo Massilio attendea, perché al scender del monte avesse inciampo. E una giovane bella meco avea, del cui fervido amor nel petto avampo, e ritrovai presso a radonna armato un che franava un gran destriero alato. Tosto che ladro, ossia mortale, ossia una dell'infernarli anime orrende, vede la bella e cara donna mia, come falcon che per ferir discende, cala e poggia in un attimo, e tra via getta le mani, e lea smarrita prende. Ancor non m'er accorto dell'assalto, che della donna io senti il grido in alto. Così il rapace nibbio furar suole, il misero pulcin presso alla chioccia, che di sua inavvertenza poi si duole, e invan gli grida, e invan dietro gli croccia. Io non posso seguir un uom che vuole, chiuso tra monti, i piè d'un erta roccia. Stanco ho il destrir, che muta appena i passi, nel aspre vie dei faticosi sassi. Ma, come quel che men curato avrei vedermi tra di mezzo il petto il core, lasciai lor via seguir quegli altri miei, senza mia guida e senza alcun rettore. Per gli scoscesi poggi, e manco rei presi la via che mi mostrava amore, e dove mi parea che quel rapace portassi il mio conforto e la mia pace. 6 giorni me n'andai mattina e sera per balze e per pendici oride e strane, dove non via, dove sentier non era, dove né segno di vestigie umane. Poi giunsi in una valle unculta e fiera, di ripe cinte e spaventose tane, che nel mezzo s'un sasso avea un castello forte e ben posto, a maraviglia bello. Da lunghi par che come fiamma lustri né sia di terra cotta né di marmi, come più m'avvicino ai muri illustri l'opra più bella e più mirabil parmi. E seppi poi, come i demoni industri da su fumici tratti e sacricarmi tutto d'acciaio avean cinto il bel loco temprato all'onda ed allo stigio foco. Disi forbito acciar luce ogni torre che non vi può né ruggine né macchia. Tutto il piese giorno e notte scorre e poi là dentro il rio ladron si macchia. Cosa non ha ripar che voglia torre, sol dietro in van se li bestemmia e gracchia. Qui vi la donna, anzi il mio cor mi tiene, che di mai ricovrar lascio ogni spene. Ah, lasso, che possio più che mirare la rocca lungi, ove il mio ben me chiuso? Come la volpe, che il figlio gridare nel nido oda dell'aquila digiuso, s'aggira intorno e non sa che si fare, poiché l'ali non ha dar gir la suso. Erto è quel sasso sì, tale è il castello, che non vi può salir che non è augello. Mentre io tardava quivi, ecco venire due cavalier che avan per guida un nano, che la speranza aggiunsero al desire, ma ben fu la speranza e il desir vano. Ambi erano guerrier di sommo ardire, era Gradasso l'un, re Sericano, era l'altro Ruggier, giovane forte, pregiato assai nell'africana corte. «Vengon», mi disse il nano, «per far prova di lor virtù, col sir di quel castello, che per via strana, inusitata e nuova, cavalca armato il quadrupede augello». «De, signor», dissio lor, «pietà vi muova del duro caso mio speatato e fello. Quando, come ho speranza, voi vinciate, vi prego la mia donna mi rendiate». E come mi fu tolta lor narrai, con lacrima arfemando il dolor mio. Que, lor merce, mi proferiro assai, e giù calaro il poggio alpestre e rio. Di lontan la battaglia io riguardai, pregando per la lor vittoria Dio. Era sotto il castel tanto di piano, quanto in due volte si può trar con mano. Poiché fur giunti a pie dell'alta rocca, l'uno e l'altro volea competer prima. Pur a Gradasso, o fosse sorte, tocca, oppur che non ne fe Ruggier più stima. Quel Serican si pone il corno a bocca. Rimbomba il sasso e la fortezza in cima. Ecco apparire il cavaliero armato fuor della porta e sul cavallo alato. Cominciò a poco, indi a lavarse, come suol fa la peregrina grue, che corre prima e poi vediamo ausarse alla terra vicina un braccio o due. E quando tutte sono all'aria sparse, velocissime mostra l'ale sue. Si ad alto il negromante batte l'ale, che a tanta altezza appena aquila sale. Quando gli parve poi, volse il destriero, che chiuse i vanni e venne a terra a piombo, come casca dal ciel falcon maniero, che levar veggia la nitra o il colombo. Con la lancia arrestata il cavaliero, l'aria fendendo vien d'orribil rombo. Gradasso appena del calà se vede, che se lo sente addosso e che lo fiede. Sopra Gradasso il mago l'asta roppe, feri Gradasso il vento e l'aria vana. Per questo il volator non interroppe il batter l'ale e quindi s'allontana. il grave scontro fa chinar le groppe su verde prato alla gagliarda alfana. Gradasso avea una alfana, la più bella e la miglior che mai portasse sella. Sin alle stelle il volatol trascorse, indi girossi e tornò in fretta al basso, e percosse Ruggier che non s'accorse, Ruggier che tutto intento era a Gradasso. Ruggier del grave colpo si distorse, e il suo destrier più rincolò d'un passo, e quando si voltò per lui ferire, da sé lontano il vide al ciel salire. Or su Gradasso, or su Ruggier percote, nella fronte, nel petto e nella schiena, e le botte di cui lascia ognor vote, perché è sì presto, che si vede appena. Girando va con spaziose rotte, e quando all'uno accenna, all'altro mena. All'uno e all'altro si gli occhi abbarbaglia, che non ponno veder donde li assaglia. Fra due guerrieri in terra ed uno in cielo, la battaglia durò sino a quella ora, che spiegando pel mondo oscuro velo, tutte le belle cose discolora. Fu quel ch'io dico, e non v'aggiungo un pelo. Il vidi, il so, né m'assicuro ancora di dirlo altrui, che questa maraviglia al falso più ch'al ver si rassimiglia. D'un bel drappo di seta avea coperto lo scudo in braccio il cavalier celeste, come avesse, non so, tanto s'afferto di tenerlo nascosto in quella veste, che mantenente che lo mostra aperto, forse è, ch'il mira abbarbagliato reste, e cade come corpo morto cade, e venga al negromante in potestade. Splende lo scudo a guisa di proppo, e luce altra non è tanto lucente. Cadere in terra allo splendor fu duopo, con gli occhi abbacinati e senza mente, perde da lunghi anch'io li sensi, e dopo gran spazio mi riebbi finalmente. Né più i guerrier, né più vidi quel nano, ma voto il campo, e scuro il monte e il piano. Pensai per questo che l'incantatore avesse amendui colti a un tratto insieme, e tolto, per virtù, del lo splendore, la libertade a loro, a me la speme. Così a quel loco, che chiudea il mio cuore, dissi, partendo, le parole estreme. Or giudicate s'altra pena ria, che causi amor, può pareggiar la mia. Ritornò il cavalier nel primo duolo, fatta che n'ebbe la cagion palese. Questo era il conte Pinabel, figliuolo d'Anselmo d'Altaripa, maganzese, che tra sua gente scelerata solo leale esser non volse né cortese, ma né di vizi abominandi e brutti non pur gli altri adeguò, ma passò tutti. La bella donna, con diverso aspetto, stette ascoltando il maganzese quieta, che come prima di Ruggier fu detto, nel viso si mostrò più che mai lieta, ma quando sentì poi che era indistretto, turbossi tutta d'amorosa pieta, né per una o due volte contentosse che ritornato a replicarle fosse. E poi, ch'al fin le parve esserne chiara, gli disse: «Cavalier, datti riposo, che ben può la mia giunta esserti cara, parerti questo giorno avventuroso. Andiam pur tosto a quella stanza avara che sì ricco tesor ci tiene ascoso. Né spesa sarà in van questa fatica, se fortuna non m'è troppo nemica.» Rispose il cavalier: «Tu Tu vuoi ch'io passi di nuovo i monti e mostriti la via? A me molto non è perdere i passi, perduta avendo ogni altra cosa mia. Ma tu, per balze e ruinosi sassi, cerchi entrar in prigione, e così sia. Non hai di che dolerti di me, poi ch'io tel predico, e tu purgir vi vuoi. Così dice egli, e torna al suo destriero, e di quella animosa si fa guida, che si mette a periglio per Ruggero, che la pigli quel mago o che la ancilla. In questo, ecco, alle spalle il messaggero che... Aspetta, aspetta! A tutta voce grida. Il messagger, da chi il circasso intese, che costei fu, ch'all'erba lo distese. A Bradamante il messagger novella di Montpellier di Narbona porta, calzato gli standardi di Castella Vean con tutto il lito d'acqua morta, e che Marsiglia, non vessendo quella che la dovea guardar, mal si conforta, e consiglio e soccorso le domanda, per questo messo e se le raccomanda. Questa cittade, e intorno a molte miglia ciò che Travaro e Rodano al mar siede, avea l'imperator dato alla figlia del duca Amon, in che avea speme e fede, però che il suo valor con maraviglia riguardar suol quando armeggiar la vede. Or, come io dico, a domandare aiuto, quel messo da Marsiglia era venuto. Tra sì e no la giovane sospesa di voler ritornar dubita un poco, quinci l'onore e il debito le pesa, quindi l'incalza l'amoroso fuoco. Fermasi al fin di seguitar l'impresa e trar Rugger dell'incantato loco. E quando sua virtù non possa tanto, almen restargli prigioniera accanto. E fece scusa tal che quel messaggio parve contento a rimanere cheto. Indi girò la briglia al suo viaggio, con Pinabel che non ne parve lieto, che seppe esser costei di quell'ignaggio che tanto ha in odio in pubblico e in segreto, e già s'avvisa le future angosce se lui per maganzese ella conosce. Tra casa di Maganze di Chiarmonte era odio antico e inimicizia intensa, e più volte s'avea rotta la fronte e sparso di lor sangue copia immensa. E però nel suo cor l'iniquo conte tradir l'incauta giovane si pensa, o, come prima comodo gli accada, lasciarla sola e trovar altra strada. E tanto gli occupò la fantasia il nativo odio, il dubbio e la paura, che inavvedutamente uscì di via e ritrovossi in una selva oscura, che nel mezzo avea un monte che finia la nuda cima in una pietra dura. E la figlia del duca di Dordona gli è sempre dietro e mai non l'abbandona. Come si vide il maganzese al bosco, pensò torsi la donna dalle spalle, disse: prima che il ciel torni più fosco, verso un albergo è meglio farsi il calle. Oltre quel monte, s'io lo riconosco, siedi un ricco castel giù nella valle. Tu qui m'aspetta, che dal nudo scoglio certifica con gli occhi me ne voglio. Così dicendo, alla cima superna del solitario monte d'Ester caccia, mirando pur s'alcuna via discerna, come lei possa tor dalla sua traccia. Ecco, nel sasso truova una caverna che si profonda più di 30 braccia. Tagliato a picchie da scarpelli il sasso scende giù a dritto e dà una porta al basso. Nel fondo avea una porta ampla e capace che in maggior stanza largo adito dava, e fuor n'uscia splendor come di face, ch'ardesse in mezzo alla montana cava. Mentre qui il fellon sospeso tace, la donna, che da lungi il seguitava, perché perdere l'orme si temea, alla spelonca gli sopraggiungea. Poi che si vide il traditore uscire quel che aveva prima disegnato in vano, o la sé torla o di farla morire, un nuovo argomento immaginossi e strano. Ne si fe incontra e su la fe salire, là dove il monte era forato e vano, e le disse che aveva visto nel fondo una donzella di viso giocondo, che abbia i sembianti e alla ricca veste esser parea di ignobil grado, ma quanto più potea turbata e mesta, mostrava esservi chiusa suo malgrado, e per saper la condizion di questa, che aveva già cominciato a entrare nel guado, e che era uscito dell'interna grotta un che dentro a furor l'avea ridotta. Bradamante, che come era animosa così malcauta, a Pinabel die fede, ed aiutar la donna disiosa, si pensa come por colà giù il piede. Ecco, un olmo alla cima frondosa, volgendo gli occhi, un lungo ramo vede, e con la spada quel subito tronca, e lo declina giù nella spelonca. Dov'è tagliato, in manno raccomanda a Pinabello, e poscia quel s'apprende, prima giù i piedi nella tana manda, e sulle braccia tutta si sospende. Sorride Pinabello e le domanda come ella salti, e le man apre e stende dicendole: qui fosser teco insieme tutti li tuoi, ch'io ne spegnessi il seme. Non come volse Pinabello avvenne dell'innocente giovane la sorte, perché giù diroccando a ferir venne prima nel fondo il ramo saldo e forte, ben si spezzò, ma tanto la sostenne che il suo favor la liberò da morte. Già quest'ordita la donzella alquanto, com'io seguirò nell'altro canto. Fine del canto secondo.